Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È sempre di fianco a me, anche ora, mentre scrivo. Certo, non è più puzzolente e non è più spelacchiato. È rimasto uno splendido esemplare di Pinscher e se ne sta acciambellato sulle mie ginocchia. Non chiede nulla, non pretende nulla, solo un po' di cibo, un po' di acqua e qualche passeggiata. Mi chiamo Antonella Andretta, 44 anni, vivo in provincia di Milano, un marito e un figlio di 9 anni. Sono una giornalista freelance e mi occupo di temi economici legati al turismo. È un doppio salto mortale quello che chiediamo di fatto oggi, perché sapete, ogni puntata ha un tema, non lo diciamo quasi mai, però oggi mi piace proprio partire dal titolo di questa puntata. Il titolo di questa puntata è quello che gli animali non dicono, nel senso che già non parlano di loro. Se poi uno cerca di capire quello che non dicono, appunto il salto mortale è doppio ed è anche un pochettino scivoloso come terreno, perché io conosco l'affetto e l'amore che tutti i proprietari di animali provano nei confronti dei loro animali e spesso ci vedono delle cose che magari non ci sono nelle facce, nelle espressioni o nei miagoli o negli o nell'abbaiare del loro cane. Quindi quello che vi chiedo per questa puntata è di tenere i nervi saldi, perché diciamo, quando uno chiede che cosa dicono gli animali che non dicono, si rischia subito di scivolare lì, no? Perifrasi amorose nei confronti del proprio cane. E invece no, mi piacerebbe semplicemente parlare di quelle volte in cui avete avuto veramente la sensazione che un cane stesse dicendo qualcosa, o una capra, o un lombrico, anche se vi è mai capitato. 349-238-6666, perché la storia di Antonella e del suo cane oggi ha proprio a che fare con quella cosa lì, della sensazione di una cosa che quel cane le ha detto quando lei è andata a prenderlo, e che racconta molto meglio di me, e ve la racconterò più tardi. Una cosa che quel cane le ha detto quando lei lo ha incontrato, e lì è scattata una sorta di scintilla. 349-238-6666, c'è un profilo Facebook anche che è sempre quello, ed è voi siete qui lì. Un attimo, da capo. Tiziano, la prossima volta che in mensa prendo le patatine fritte, tu dammi una sberla, quantomeno sulla mano. Voi siete qui, @radio24.it è la mail, e invece il profilo Facebook è Matteo Caccia, io sono qui. Ecco, e poi, visto che era un doppio salto mortale, qualcuno è stato molto più furbo di me, come capita praticamente sempre, e ha pensato, visto che non posso dirti quello che non dicono gli animali, ti mando una foto. E sono arrivate alcune foto sul profilo Facebook del programma. La più bella di tutte in assoluto, o quella che rappresenta meglio il titolo della puntata di oggi, è una fotografia anche un po' triste per certi versi, in cui c'è una stanza di ospedale e c'è un bambino col pigiama nel letto d'ospedale che sta dormendo, e ai suoi piedi c'è un pastore tedesco gigante che dorme ai suoi piedi, ed è come se fosse speculare a lui. Non so cosa voglia dire questo cane, però in qualche modo qualcosa lo sta raccontando. Andate a vedere, la foto è molto bella ed è sul profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui. Claudio scrive invece: lo sguardo di animale una volta mi ha fatto diventare vegetariano. Robert: a me sembra che dicano tutti ho fame. E poi il miglior messaggio è quello di Laura, che dice: c'è un beagle vicino a casa mia. Il beagle è quel cane, è quello da caccia. No, Snoopy non è un beagle. Snoopy è un bracco, credo. È un bracco. Il beagle è quello della caccia alla volpe, no? Che sono quelli anche all'aeroporto JFK, usano i beagle per annusare i bagagli e sentire se hai portato del cibo. Loro sono tanto carini, si annusano il tuo bagaglio e si fermano. Sei fregato. Comunque, Laura, c'è un beagle vicino a casa mia, e quindi non è il suo, e quindi è un po' più lucida, Laura. Vicino a casa mia, che ogni volta che passo ci guardiamo in faccia e mi dice... Scusa, mi togli un attimo la base, Pietro. Sun sempar chi. No, aspetta, la rifaccio. Sun sempar chi, sono se fa. Che tradotto è: sono ancora qui e non so che cosa fare. 349-238-6666. Proprio se avete avuto la sensazione che vi dicesse una cosa come questa: sun sempar chi, sono se fa. Sono sempre qui, non so cosa fare. Altrimenti, diciamo, tutto il resto che riguarda l'amore e la richiesta di cibo, più o meno lo sappiamo. La storia di Antonella invece parla di un incontro, e parla a suo modo di un colpo di fulmine. Non so se è per tutti così. Di sicuro lo è per me. Io mi innamoro sempre a prima vista. Cioè, non è che mi innamori ogni due per tre, o che sia così facile per me entusiasmarmi a nuovi progetti, o farmi nuovi amici, o cambiare lavoro. No, è che con l'amore mi capita così. Mi basta uno sguardo, un'espressione, un sorriso e sono secca. Io e lui ci siamo incontrati in un corridoio lungo, buio e sporco. Lui stava fermo, seduto proprio in fondo, voltato verso la parete. Quando sono entrata nell'appartamento di quel palazzo milanese, che certo aveva conosciuto tempi migliori, lui non si è girato. Ha continuato a fissare la parete, immobile, mentre io parlavo con la padrona di casa, una signora anziana, neanche tanto vecchia, ma molto trasandata. Mi stava spiegando come fosse difficile per lei tirare avanti con tutte quelle bocche da sfamare. Tracce di quei pasti in effetti se ne vedevano ovunque, in cucina, in sala, in corridoio, persino in bagno. L'odore, devo ammettere, era disgustoso. Era un misto tra urina, scatolette e bucce avariate, più o meno come quello delle pattumiere in estate, solo che era dicembre. La casa però era piena zeppa di gatti e di cani, almeno 30, forse 40, alcuni storpi e incontinenti. Quello non era un appuntamento galante classico, no, non era neanche una cena romantica. «E lei cosa cerca? Perché è qui?» mi chiede la gattara con aria aggressiva. Io intanto mi guardo intorno, sono abbastanza attonita. «Guardi, io veramente sono qui per il cane, quello dell'annuncio che dice regalo pincher abbandonato a chi se lo viene a prendere. È attaccato sul palo qua sotto da settimane». L'ho detto oltrepassando con lo sguardo la sua spalla per osservare il cane, che a quelle parole di colpo si è voltato verso di me e mi ha fissato, drizzando le orecchie e corrugando la fronte. «Ho sempre amato, adorato gli animali. Ho avuto cani, gatti, criceti e soprattutto non ho mai pensato di acquistare un animale. Infatti tutti gli animali che ho avuto sono sempre stati dei trovatelli, raccattati per strada o trovati nella spazzatura, ereditati da persone che non li volevano. E la stessa cosa è stata per il mio Spartaco». Uno sguardo lungo, intenso il nostro, un po' tipo un film di Sergio Leone. Il suo era un po' ansioso, come se dicesse delle parole tipo «Portami via, ti prego, portami via». Dopodiché improvvisamente ha lasciato il suo giaciglio e si è diretto verso di me, scodinzolando piano. La signora ha abbassato la testa e ha osservato con stupore il cagnetto che nel frattempo mi si era avvicinato, mi stava leccando le mani, mentre io sorridendo gli grattavo la testa spelacchiata. «Ah vabbè, ma se è così glielo do il cane, se lo prenda, anzi se lo prenda e vada, vada via che ho da fare, lo vede, no?» La vecchia mi ha praticamente sbattuto fuori dalla porta, con un quadrupede puzzolente e malnutrito sotto il braccio, che come ringraziamento la prima cosa che ha fatto è stata vomitarmi addosso. Ecco, non so se per tutti è così, di sicuro lo è per me. Mi innamoro sempre a prima vista, l'ho già detto. Tipo Pietro, ad esempio, il primo che mi ha fatto battere il cuore, i cui occhi azzurri ho incrociato il primo giorno di scuola alle elementari e non ho più scordato. E poi Federico al mare quando avevo 11 anni, poi Silvano al liceo, Daniele all'università, Fabrizio a 23 anni, amico di amici e conosciuto in un locale notturno, e mio bellissimo marito da quasi 20 anni. Nella mia vita almeno ha sempre funzionato così, le persone che mi sono piaciute, le persone di cui mi sono innamorata, prima di tutti mio marito. Se all'inizio forse lo desideravo più io, adesso è fa coppia fissa con lui sul divano, non si schiodano l'uno dall'altro. E dopo tutti questi pezzi di vita è stato ancora un colpo di fulmine a legarmi a un altro essere vivente. Sì, ok, è un cane. E allora? È sempre di fianco a me, anche ora, mentre scrivo. Certo, non è più puzzolente e non è più spelacchiato. È rimasto uno splendido esemplare di Pincher e se ne sta acciambellato sulle mie ginocchia. Non chiede nulla, non pretende nulla. Solo un po' di cibo, un po' di acqua e qualche passeggiata. A lui basta che io ci sia, con l'amore incondizionato che solo gli animali possono dare e possono prendersi. You've been far away from me, another land across the sea. And all this time my heart's been breaking, just waiting round and aching for a letter or telegram telling me how sweet I am. You swear your heart will never roam, so do you come back home? I'll wear your colors till you come back home to me. Vieni qui, dove vai? Ma ti pare il modo di fare? E adesso dove andiamo? Fai il bravo. Dimmi tutto. Ecco, questo è il genere di domande che si possono fare di solito a una persona, forse a un bambino. A un cane però, in teoria no. E ne ho sentite, e sicuramente ne avrete sentite anche voi, di molto più imbarazzanti. Io quando faccio una domanda a qualcuno mi viene in mente che quello possa rispondere, se no sto parlando da solo, giusto? Che può anche andare bene, però basta saperlo, cioè è una situazione al limite comunque. Ecco, queste frasi le sento ogni volta che passo nel giardino dove vado a fare una passeggiata, e ogni volta che incontro persone con dei cani che sperano che il loro schnauzer o il loro labrador capisca, e che magari capisce, ma soprattutto loro probabilmente si aspettano che risponda. Ad esempio, un giorno ho visto in un supermercato un tizio che parlava con un tubo di maionese e mi è parso un po' strano, però alla fine era abbastanza coerente, nel senso che lui era matto e quindi parlava con un tubo della maionese. Però i padroni che parlano ai cani e che si aspettano una conversazione vera, quelli li scuso un po' meno, nel senso che quelli sono persone ragionevolmente sane e sanno di avere a che fare con un animale che fino a prova contraria non parla l'italiano o il danese o il portoghese. E che sì, sono animali intelligenti, sono molto fedeli e sono felici quando sei felice e sono tristi quando tu sei triste e sono molto sensibili alle azioni dei loro padroni. Cioè, non c'è bisogno di uno scienziato, no? Per sapere che se sei un cane e uno che riconosci come il tuo padrone ti urla dall'alto in basso e muove le mani e usa un tono molto sgradevole, è probabile che tu terrai le orecchie basse e te ne starai fermo, no? Te ne starai zitto. O al contrario, invece, se lui ti accarezza, ti abbraccia, ti dà dei biscotti e vuole giocare con te, probabilmente salterai per la gioia e tirerai fuori la lingua, no? Emettendo tanta saliva e scodinzolando. È un po' la quintessenza di essere un cane. Quelli però che si trovano davanti a un padrone che gli parla, ecco, un po' li compatisco, un po' mi dispiace per loro. Perché è evidente che non è che capiscono tutto, capiscono il tono della voce, ma di sicuro non è che possono rispondere. E allora mi metto un po' nei panni di chi parla ai cani. Nel senso che mi domando cosa pensano esattamente di fare, se pensano di fare un favore o se pensano di intrattenerli invece. O magari no, ci sono quelli che non hanno gran considerazione degli altri esseri umani, quindi si rivolgono ai loro cani. Oppure sono gli altri umani a evitarli e quindi loro si accontentano di quel che c'hanno. Quel che penso che succeda con i cani è che la gente in realtà voglia provare a parlare un po' con se stessa, no? Che è già una cosa difficile. E quindi c'è chi fa altre cose, c'è chi va da un prete, chi va da uno psicologo. Ognuno cerca di entrare un po' in contatto con quella parte di sé che ancora non conosce e che delle volte gli rema anche contro. E allora si prende un cane che gli fa un po' da specchio. E quando gli chiede appena uscito di casa, beh, dove andiamo? In realtà lo sta chiedendo a se stesso. E sta vagliando se girare verso i giardini di qua o verso le aiuole di là. E deve essere per questo che i cani assomigliano sempre così tanto ai loro padroni. Perché sono il loro specchio. Una volta un mio amico è andato al canile a prendere un trovatello perché voleva fare una cosa buona e voleva compagnia. Ha scelto un bastardino un po' pazzo, tutto pulcioso. Solo che la tizia del canile, che non è stupida e sa leggere certe cose, lo ha visto tutto bello con la sua sciarpina in cashmere, con i pantaloni belli bianchi e stirati, gli ha fatto un paio di domande e poi al posto di quel bastardino gli ha proposto un labrador che era un po' malaticcio, però era di razza. Gli ha detto che era intelligente, socievole, docile, che era un eccellente nuotatore. Insomma, un cane nobile. E lì il mio amico si è illuminato e ha scelto lui. Loro sono contenti e lui, il mio amico, al cane, che ha chiamato King George, gli parla sempre. Every time we speak, you are spitting in my mouth. If I don't take you somewhere else, I'm gonna pull my teeth right out. Esattamente questi messaggi che io mi aspettavo. Io ho un pesce rosso, per cui parliamo di un pesce rosso, cioè di un pesce rosso, e ti giuro alle 5:30 mi chiama andando contro il vaso con la testa per chiedere del cibo. Giovanni, 349-238-6666. Io ho tartarughe di terra, non sono affettuose come i cani. Quando fanno le uova le mettono in incubatrice. Dopo 2 mesi nascono e a regolare temperatura possono scegliere se far nascere maschio o femmine. Chi? Le tartarughe possono sceglierlo? Sì. Poi le tartarughe vivono di più. Poi le tartarughe vivono più di noi. Quindi la tartaruga la tieni per tutta la vita. Cesare invece scrive che io ho 5 galline salvate da un allevamento intensivo. Allora, innanzitutto, com'è che a uno viene di andare in un allevamento intensivo per salvare delle galline? E poi perché solo 5? Cioè, perché o solo, perché non una, perché 5? Però Cesare scrive: dovresti vedere quanto è bello vedersi, vederle godersi la campagna dopo mesi di gabbia. chiedere, sei un genio. Mandami una foto di queste 5 galline. Allora, tutti mi dicono che Snoopy è un beagle, ma io sono pronto a giocarmi un dito che è un bracco invece. Infatti, vedi, qualcuno mi scrive: nella versione italiana è un bracchetto, ma Snoopy è un beagle. Vabbè, invece Felice mi dice: c'è un proverbio inglese che recita: se vuoi fare del male al tuo peggior nemico, regalagli un beagle. Questo perché è una razza di cane molto testarda. Ma chi se ne frega dei beagle? Io voglio parlare di Spartaco e lo faccio con Antonella. Pronto, Antonella? Pronto, Matteo, ciao. Come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Io benone. E Spartaco? Ma guarda, Spartaco sta da Dio, è acciambellato come al solito nella sua cuccia, con la sua copertina. Senti, tra l'altro, tra l'altro, questo lo immagino, Antonella, da come ne parli di lui immagino che sia felice. Tra l'altro, non l'ho detto prima, ma il tuo racconto apre, forse, non so, non mi ricordo più se abbiamo raccontato altre storie di animali, però apre una di quelle categorie di racconti, e ne sono arrivati tanti, proprio dedicati agli animali e all'amore per i propri cani, e il tuo, diciamo, era quello un po' più lucido, nel senso che ce n'erano alcuni che erano veramente un po' troppo. Invece il tuo racconto con l'incontro con Spartaco era, quantomeno raccontava che cosa vuol dire avere un cane e quanto amarlo. La seconda domanda è: perché Spartaco? Oddio, è una storia lunga, comunque fa abbastanza ridere, quindi la racconto. Sì. Spartaco è il nome preferito di mio marito, che viene citato anche nel racconto. Che si chiama invece? Si chiama Fabrizio. Fabrizio, si chiama giusto, Fabrizio, giusto. Mio marito. E dunque voleva chiamare il nostro figlio Spartaco. Tu ti sei apposta. Soltanto che non è, esatto, non è proprio un nome facilissimo da portare, Spartaco. Quindi, vabbè, il bambino poi l'abbiamo chiamato in un altro modo, infatti si chiama Paolo. Ma quando sono arrivata a casa con il cane, con Spartaco in braccio, ovviamente non gli avevo ancora dato il nome, quindi col giubbotto sporco di vomito, insomma una giornata complicata. Che immagine meravigliosa che ci regala Antonella. Lui ha detto Spartaco. No, mio marito, ma guardate, mi ha detto: senti, ma questo qui almeno posso chiamarlo Spartaco? E Spartaco è rimasto. Magnifico. Senti, tu che cosa fai nella vita, Antonella? Sono una giornalista. Ma quindi la gestione di Spartaco come è sempre? Lui rimane a casa da solo, tu sei a casa, no, lavori da casa? Esatto, sono una giornalista freelance, ho il mio studio e il mio collega, come dico sempre, è anche l'unico essere vivente che condivide lo studio con me, è proprio Spartaco. Perfetto, Antonella, senti, io ti ringrazio moltissimo per la storia, per la chiacchiera, e saluti a Spartaco, che immagino non si possa disturbare perché starà riposando. Anche. Benissimo, non è lui, ma questo cos'è, un pastore tedesco, la corte. Grazie mille, Antonella, buona serata. Ciao, grazie. Voi siete qui. La foto che ci ha mandato Antonella, che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui, è una foto bellissima, è in un campo di fiori di tutti i colori, o forse da un... o forse da un venditore o da un fioraio, non lo so, da un fiorista. Lei è in basso a destra, ha i capelli rossi corti, un po' spettinati, e un giubbotto con una specie di sciarpa, e ha un bel sorriso in questa foto. Ne ha mandata un'altra però di foto, perché non potevano mandarci la foto con Spartaco, e Spartaco è con il fortunatissimo Paolo, cioè il figlio che diciamo di fatto Spartaco lo ha salvato, perché altrimenti avrebbe dovuto chiamarsi anche lui in quel modo lì. Tra l'altro, a proposito di Spartaco, qualcuno scrive: no, anche mia moglie mi ha impedito di chiamare mio figlio Spartaco, e chissà come mai. Oppure c'è chi chiama, qualcuno ha chiamato il figlio Geronimo. E Federico invece scrive: io ho un maiale adottato a distanza, al momento lo guardo tutti i giorni sulla webcam, ma a dicembre viene a vivere con me. Federico da Genova. Saltiamo un attimo a un'altra questione, perché ho un compito arduo, ma che stiamo svolgendo veramente con tutto il rigore del caso, ed è che venerdì e sabato 18 e 19 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano si tiene una serata che si chiama La Notte dei Publivori, in cui vengono trasmessi un bel po' di spot. Se siete degli esperti o avete semplicemente degli appassionati, avete voglia di andare a questa serata, noi regaliamo due biglietti oggi. È una cosa molto semplice, li regaliamo in questo modo: io vi racconto uno spot degli anni, credo anche questo mi sa degli anni 80, voi capite qual è il prodotto che veniva pubblicizzato e lo scrivete immediatamente al 349-238-6666, ok, e vi aggiudicate questi due biglietti per la serata per la notte dei Publivori. Lo spot è molto semplice, perché ha una storia semplicissima. Di fatto non ha una storia, ma visto che si parla di cani, non potevo non raccontare questo spot che mi è in qualche modo rimasto nel cuore, in cui c'è un allevatore. E già dovreste averla capita. Secondo me l'avete già capito. C'è un allevatore ed è toscano. Parla in toscano ed è lì con due cani. Non mi ricordo che cani siano, forse un setter irlandese. Comunque è lì con i suoi cani e escono dei sottopancia in cui dicono allevatore ha vinto diversi concorsi eccetera eccetera eccetera. L'hanno già beccato. Grande, grande, l'hai beccato. 562, l'hai già beccato. Lui dice io do e dice il nome del prodotto ai miei cani. E il pezzo diciamo che rimane nella memoria di tutti quelli che guardavano la televisione all'epoca era c'è dei pezzi bellissimi dentro. 349-238-6666, l'avete già beccato, no? Vabbè, non sto capendo. Tiziano mi sta parlando, ma non sento niente. Comunque, sono già arrivati i messaggi. L'avete già beccato. E quindi rimanete lì. Adesso poi vi contatterà Margherita o il marketing. E vi siete vinti due bei biglietti per la notte dei Publivori. Non ci facciamo veramente mancare niente. Si parla di cani, però. E Tiziano, ho trovato un vecchio articolo del Sole 24 Ore, vecchio mica tanto, di un paio d'anni fa, che svela qualche segreto riguardo a uno dei cani più famosi della storia. Che è Laika, vi ricordate Laika, il primo cane nello spazio, che era un cane russo che era stato lanciato in orbita, di cui però ci si ricorda giusto il nome e ci si ricorda giusto che è stato il primo animale nello spazio. Ci sono però delle cose di Laika che nessuno sa. È passata alla storia con il nome di Laika. Era una cagnetta meticcia, pelo pezzato, età circa 3 anni. Il 3 novembre del 1957 fu lanciata dal poligono sovietico di Baikonur. Laika era a bordo della capsula spaziale Sputnik 2, che compì 2570 orbite intorno alla Terra e bruciò poi al rientro nell'atmosfera, mesi dopo. Il primo essere vivente nello spazio, annunciò la Pravda. Fu Laika a inaugurare, o almeno ad accelerare, la corsa spaziale. Quella che nel 1961 portò in orbita Yuri Gagarin, primo cosmonauta della storia. E così Laika è diventata un mito. A lei sono stati dedicati francobolli, monumenti, anche sigarette e cioccolatini. Ma come tutti i miti, ha poco di vero. A partire dal nome, ad esempio. La calappia cani che raccolse la cagnetta per le vie di Mosca la chiamò Kudryavka, che significa ricciolina. Il nomignolo Laika, in realtà, che sta per colei che abbaia, fu inventato a posteriori per motivi di marketing. Ma di falso, nella storia di Laika, c'è ben più che il nome. Anche il titolo di primo essere vivente nello spazio è una pura convenzione, che non corrisponde a verità. Infatti, negli anni 50 e 60, l'Unione Sovietica preparò per gli esperimenti spaziali una vasta equipe di animali, arrivando a lanciare una 50 di roditori e quasi 60 cani. Di questi ultimi, almeno 7 finirono nello spazio diversi anni prima di Laika. Che Laika fosse già condannata era certo prima della partenza, perché lo Sputnik, privo di scudo termico, non poteva rientrare nell'atmosfera senza bruciare. Perciò, per evitare alla cagnetta un'atroce agonia, era prevista la somministrazione entro una settimana di una pasta avvelenata. Quella pasta mortale, però, non servì. Il Cremlino ammise subito che Laika era sopravvissuta nello spazio solo 4 giorni e la morte fu attribuita alle escursioni termiche troppo forti. Ma forse non andò neppure così. Infatti, solo pochi mesi fa, da Mosca è trapelata una terza versione ufficiosa. Secondo questa tesi, la cagnetta sarebbe deceduta subito dopo il lancio per un guasto all'impianto di ossigenazione. Ecco. Se questa fosse la verità, la storia dell'esplorazione spaziale andrebbe completamente riscritta, perché Laika sarebbe morta prima di entrare in orbita. E quindi il primato tradizionalmente attribuito alla cagnetta andrebbe girato ad altri animali. Ma girato a chi? In realtà a un'intera arca di Noè. Esclusa Laika, infatti, i primi animali lanciati intorno alla Terra furono 44, e tutti in contemporanea. 2 cagnette, 2 topi e 40 ratti. Questo equipaggio era a bordo dello Sputnik 5, partito da Baikonur il 19 agosto 1960 e rientrato a terra dopo un giorno con tutti i suoi animali sani e salvi. Le Le due cagnette si chiamavano Belka, scoiattolo, e Strelka, freccetta. La seconda somigliava in modo impressionante a quella più famosa, quella che tutti ci ricordiamo con il nome di Laika. But can you still now remember who's been hiding up there through his howl and its twilight, all his songs of despair? Do you remember the caller of black and white crime? Well, he lives by that memory and falls from his mind, and you know it's a lion's heart that will tumble and tear apart when he's coming. L'uomo più alto della terra, the tallest man on earth, lo trovate chiaramente anche sul sito di Radio 24, dove trovate tutti i brani che mandiamo in onda tutti i giorni, sono tre, e li trovate lì sulla pagina di Voi Siete Qui. 349-238-6666. Si è chiuso il gioco della notte dei publivori e ha vinto, non so chi, perché ha scritto solo PAL, però la risposta era PAL. Credo che non esista più il PAL, esiste ancora? Secondo me Margherita lo sa. Margherita, c'hai dei cani, lo saprai se esiste il PAL. Qualcuno ha avuto il coraggio di scrivere Amaro Montenegro, ma non ho capito. Stefano ha scritto Amaro Montenegro, mi pigli per il culo, perché Amaro Montenegro non è un cibo per cani. Cioè, capisco quelli che scrivono Ciappi o quelli che scrivono Pedigree, ma Amaro Montenegro in due hanno scritto un altro, quindi ci credevano davvero anche Mauro. Va bene, qualcuno mi scrive: da vedere il film a Chico con Richard Gere, che è la storia di questo cane che aspettava in Giappone, aspettava il suo padrone fino a che, dalla stazione di Shibuya mi pare, fino a che il padrone è morto, era un professore universitario, lui è sempre andato ad aspettarlo. E poi è arrivato un messaggio di Alice, che è una veterinaria, e scrive un messaggio un pochettino più complesso degli altri. Dice: gli animali hanno un linguaggio molto articolato, utilizzano la comunicazione verbale molto di rado, beh, anche perché abbaierebbero, direi, e prediligono la prossemica, cioè la comunicazione posturale e visiva. Loro comunicano continuamente con noi utilizzando il loro linguaggio, espressioni del muso, sbadigli, postura, sguardi. Ogni proprietario di animale dovrebbe sentirsi in dovere di imparare anche quel linguaggio per comunicare meglio. Noi spesso non li capiamo, ma loro imparano la nostra lingua, e quindi sarebbe giusto che la imparassimo anche noi. Io veramente vorrei sapere qualcosa di più da Cesare, che ha queste 5 galline che ha salvato da un allevamento intensivo, ma chissà. Cesare, se hai Facebook e se hai delle foto, caricale sul profilo del programma, altrimenti mandale a Voi Siete Qui @radio24.it. Se volete riascoltare questo programma, se volete riascoltare le puntate che non avete sentito, esiste un podcast, lo trovate sul sito di Radio 24, o lo trovate anche ad abbonandovi gratuitamente ad iTunes. Grazie a Pietro Lacorte, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Antonella e parlava di quello che gli animali non dicono. La storia di domani è la storia di Enrico e parla di lettere. Oggi, 24 settembre, è il giorno del tuo sesto compleanno, mio piccolo Enrico. Ti sono tanto vicino e ti penso intensamente. Questa data sarà una svolta per te. Inizierai la scuola. Da lontano col cuore ti faccio tanti auguri e ti mando tanti baci. Promettimi di essere bravo con la mamma e di iniziarla bene, la scuola. Quel giorno chiuderò gli occhi e ti vedrò col tuo grembiulino nero, il colletto bianco e la piccola cartella rossa, e penserò tanto a te.